Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona estate a tutti. Eccoci a parlare di libri di economia in questa rubrica e cominciamo con Daniele Marini. Buongiorno Marini. Buongiorno a voi. Daniele Marini, professore di sociologia dei processi economici all'Università di Padova, è direttore scientifico della Fondazione Nord-Est e ha scritto per l'editore Marsilio e per la stessa Fondazione Nord-Est il libro Fuori dalla media, percorsi di sviluppo delle imprese di successo. Ecco, in questa situazione un po' di crisi economica, di difficoltà, di rallentamento, fa un po', dà un po' di ossigeno parlare di imprese di successo. Ovviamente il libro nasce da lontano, racconta l'avventura del Nord-Est, l'avventura di imprese che grazie appunto anche alla rete territoriale sono riuscite ad essere dei casi di eccellenza, ma in questa fase indubbiamente anche queste imprese hanno qualche difficoltà, pur se stanno riuscendo a non solo a sopravvivere ma anche ad avere dei risultati perlomeno positivi. Ecco, Daniele Marini, cominciamo un po' osservando la realtà attuale. La crisi si è fatta sentire anche tra le imprese di successo? Sicuramente sì, anche queste hanno risentito in questi mesi di un calo della domanda, soprattutto da parte dei mercati esteri, dove loro sono particolarmente esposte con le relazioni internazionali e le reti lunghe di cui dispongono. Ciò non di meno, gli indicatori, anche quelli più recenti, ci confermano come proprio queste imprese, che sono quelle che negli anni precedenti hanno fatto gli investimenti per le trasformazioni necessarie per essere competitive, ecco, oggi, anche in questi mesi, che preludono all'estate, alla pausa estiva, danno dei segnali, diciamo, più confortanti, cioè riescono a reggere meglio sul mercato. In questa prospettiva si tratta di imprese, normalmente si parla di piccole imprese per la realtà italiana, e questo è certamente vero, esiste una grande quantità di piccole imprese, però c'è anche un impatto significativo di quelle che possiamo chiamare le medie imprese. Allora, individuando le medie imprese nell'arco dei dipendenti fra i 50 e i 250, questa è la soglia, diciamo così, che definisce le medie imprese in Italia, e poi sono quelle che vengono studiate anche da Mediobanca e Unioncamere annualmente. Ecco, c'è però, rischiamo di avere una sorta di strabismo nella lettura individuale di queste imprese. Lo dico con dei numeri. Ogni media impresa nel nord Italia ha mediamente relazioni con 250 circa imprese sue subfornitrici. Quindi quando parliamo di medie imprese, in realtà sminuiamo l'ottica e l'impatto, diciamo così, del sistema produttivo, perché appunto c'è questa larga platea, grande platea di imprese micro che collaborano fortemente con la media impresa. E quindi in questo processo che è stato fatto negli anni di ammodernamento, di upgrading delle medie imprese, anche queste più piccole sono state coinvolte. Quindi in realtà, fatto 100 il prodotto che viene realizzato da una media impresa, il 20% viene realizzato dalla media impresa in quanto tale, l'80% rimanente è il contributo di queste altre micro imprese. Quindi esiste un sistema a rete che comprende le imprese, che le fa collaborare e che in fondo costituisce uno dei motivi di successo, il saper utilizzare al meglio le risorse laddove esse ci sono. Assolutamente sì, tant'è che uno dei processi che hanno fatto diventare queste imprese medie, scusate il gioco di parole, fuori dalla media, cioè meglio delle altre, è stato esattamente quello di organizzare in modo strutturale la filiera, la propria filiera produttiva, che comprende da quelli che offrono e che danno un servizio o un prodotto assolutamente innovativo alla media impresa, fino a chi lo commercializza, a chi lo trasporta sui mercati, a chi offre il servizio al cliente. Ecco, analisi di bilancio realizzate su queste imprese ci dicono che esattamente quelle imprese che hanno formalizzato in misura maggiore il loro rapporto con le altre imprese più grandi sono quelle che hanno dinamiche performance anche economiche migliori. Quindi Il processo, uno dei processi, è esattamente quello di organizzare il proprio rapporto con la grande catena di subfornitori, perché questo è quello che determina poi il valore aggiunto dei prodotti che vengono realizzati. Ecco, è quello che emerge appunto anche da questa ricerca, da questo libro Fuori dalla media, lo ricordo, a cura di Daniele Marini per l'editore Marsilio, è anche il fatto che questi insieme di rapporti superino un po' la logica dei distretti, la logica dei territori, non perché questa logica non sia più uno dei fattori vincenti, perché i distretti ci sono ancora e restano uno degli elementi modello della realtà italiana, ma perché il territorio in cui opera l'impresa, sia a livello di subfornitura, sia a livello di mercato di riferimento, è molto più ampio. Si parla peraltro di una fascia pedemontana che ormai va dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e che è rappresentata anche da quella che tu chiami la società laburista. È questa una nuova realtà economica? Cosa vuol dire questa società laburista, non certo in senso politico? No, assolutamente no. È una realtà dove il lavoro, con la L maiuscola, sia esso lavoro dipendente che lavoro autonomo, quindi imprenditoriale, costituiscono l'elemento identitario e di coesione sociale di queste realtà, dove cioè non c'è differenza fra il grande imprenditore e il micro imprenditore, così come con il proprio lavoratore dipendente, il quale a sua volta si sente parte integrante di questo sistema produttivo e di questo territorio. È una realtà, quella delle medie imprese, che supera la dimensione geografica, perché vede accomunate attraverso questo simbolo del lavoro esattamente tutte le medie imprese che sono collocate prevalentemente in Italia nel nord, con una lingua che si estende lungo la fascia adriatica prevalentemente, giungendo fino alle Marche. Ecco, questo è il nuovo assetto geoeconomico che credo oggi a maggior ragione, dopo nella crisi e in prospettiva dell'uscita dalla crisi, saranno i territori dai quali molto probabilmente emergeranno i nuovi driver dello sviluppo, come vengono definiti. Ecco, allora Daniele Marini, per concludere, ha parlato di in prospettiva per uscire dalla crisi. In prospettiva c'è questa uscita dalla crisi, c'è certamente un processo in cui la crisi ha creato un po' di selezione tra le imprese, però la struttura industriale, questa struttura industriale italiana, sembra aver retto e sembra poter garantire una crescita pur diversa dal passato, ma sicuramente crescita. Direi di sì, ovviamente nessuno di noi ha la sfera di cristallo e capacità divinatorie, però sicuramente la capacità di queste imprese, che pur si sono innovate fortemente e in alcuni casi anche addirittura terziarizzate, però hanno mantenuto una forte attenzione al tema industriale, cioè al prodotto, non si sono lasciate affascinare dalle sirene borsistiche facili, hanno saputo utilizzare la finanza però in senso positivo, con un rapporto positivo, e quindi credo hanno tutte le chance, tutte le possibilità per essere pronte alla ripresa, a solcare nuovamente i mercati così come veniva fatto fino allo scorso anno. E infatti nella copertina di questo libro, lo ricordo, Fuori dalla media, percorso di sviluppo delle imprese di successo di Daniele Marini, c'è proprio un timoniere che solca il mare con il vento che lo spinge verso nuovi traguardi. Speriamo che siano questi siano traguardi di successo, questi traguardi. Ci fermiamo qui per la prima parte di questa puntata. Grazie a Daniele Marini, a tra poco. Economia in pagina. Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento su Libri di Economia. Abbiamo parlato nella prima parte del libro di Daniele Marini, Fuori dalla media, percorsi di sviluppo delle imprese di successo, e adesso in questa seconda parte parliamo proprio di una impresa di successo, un libro che ha come titolo Piano piano, che ho fretta, imprenditore è bello. A scriverlo è stato Adriano Morario, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno Adriano. Buongiorno a voi. Che racconta la storia di Marco Borione, che anche lui è presente oggi. Buongiorno Borione. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora io lascerei direttamente a Morario di spiegare chi è Marco Borione e perché ha pensato di dedicargli un libro. Marco Boglione è un personaggio della nostra città di Torino che io ho conosciuto per ragioni di lavoro. Lui aveva degli incarichi nella Film Commission, nell'agenzia per attirare attività cinematografiche a Torino in Piemonte, e nello stesso tempo aveva anche un incarico importante che era quello di attrarre investimenti industriali a Torino e nel Piemonte, l'agenzia ITP. Noi ci siamo conosciuti in quel periodo perché allora scrivevo ancora, ero cronista dell'agenzia ANSA e avevo cominciato ad apprezzarlo. Poi quando ho cominciato a lavorare per il Sole 24 Ore ho avuto altre occasioni di conoscerlo, finché abbiamo fatto un bel colpo, perché sul quotidiano abbiamo raccontato che la sua azienda aveva deciso di, in periodo anche abbastanza di crisi generale, aveva deciso di distribuire la 15ª ai suoi dipendenti. Io ero saltato sulla sedia quando me l'aveva detto, ma qui, ma che personaggio è questo? E così abbiamo cominciato a parlare, a conoscerci, mangiando insieme, attorno, mangiando una pizza insieme, mangiandone poi un'altra e poi incontrandoci ancora, e ho maturato in questa frequentazione la consapevolezza che c'era una bella, bellissima storia da raccontare. Ecco, nasce tutto così, in modo molto semplice. Allora facciamo dire a Marco Boglione, visto che tu, Borario, non l'hai detto, che tipo di azienda è quella che Boglione ha realizzato, quali sono i marchi di forza che tutti poi conoscono appena saranno svelati, e cosa c'è dietro questa azienda. Marco Boglione. Sì, no, grazie. E poi anche l'occasione di precisare un po', è tutto vero quello che ha detto Moraglio, ma dalla presentazione sembrerebbe che io sono uno che si occupa di cinema o di attrazione degli investimenti territoriali. In realtà è stata una bellissima parentesi della mia vita, perché proprio a un certo punto mi sono detto, facendo l'imprenditore, ho pensato praticamente solo a quello con molta determinazione e molta grinta, e a un certo punto mi è anche venuta voglia di fare qualcosa non di imprenditoriale, non a scopo di lucro. Mi sono messo a disposizione delle istituzioni pubbliche, mi hanno affidato quegli incarichi che poi però per fortuna, come era previsto, sono terminati, e sono ritornato a fare il mio mestiere, che è quello di fare l'imprenditore, da cui imprenditore bello. L'azienda si chiama BasicNet. I marchi che effettivamente sono abbastanza conosciuti sono la Robe di K, la K, la Jesus Jeans, la Superga e la K-Way. La novità, diciamo, di imprenditoriale sta nell'aver disegnato e realizzato un'azienda non tradizionale di abbigliamento, ma di sistema, di modello di business. Infatti oggi BasicNet gestisce un network di imprenditori, di oltre 100 imprenditori, un po' producono e un po' vendono nel mondo, che tutti insieme sviluppano le attività commerciali di questi marchi. È un'azienda che è nata veramente da un garage 15 anni fa, che si è sviluppata, che si è quotata in mezzo a tantissime difficoltà umane e professionali, sempre legate evidentemente all'attività, che sono raccontate nel libro e che mi hanno, diciamo, tutto insieme mi ha convinto. Moraglio mi ha dato lo spunto e mi ha convinto a scrivere un libro, sostanzialmente per dire ai giovani che fare l'imprenditore è un bellissimo mestiere, una bellissima opportunità di vita. Purtroppo in questo momento in Italia sono troppo pochi i giovani, ma per giovani intendo proprio giovanissimi, non il 25enne che ha fatto l'università o quant'altro, ma proprio i bambini, che da bambini sognano di fare gli imprenditori. L'imprenditore ha un immaginario, diciamo, un collettivo che secondo me non rispecchia la realtà dei veri imprenditori. Si pensa che l'imprenditore è uno avido, è uno che pensa solo al lavoro, è uno che fa tutto per i soldi, uno che se gli scappa sfrutta la gente. Non è assolutamente vero, c'è una profonda attrazione romantica all'impresa, all'assunzione del rischio, che ci ha fatto piacere, diciamo, raccontare utilizzando la mia esperienza, sperando che faccia venire voglia a qualcuno molto giovane di considerare come una scelta, diciamo, positiva e nobile di vita quella di fare imprenditore. Ecco, ma per fare l'imprenditore, Borione, essere figli di imprenditori forse è utile, ma non necessario, non indispensabile. Guardi, direi che stando alla statistica e parlando appunto degli imprenditori e delle imprese, quelle vere, quelle che nascono da un sogno, quasi quasi direi che è controproducente essere figli di imprenditori. No, non credo che per fare gli imprenditori assolutamente bisogna essere figli di imprenditori, bisogna avere delle altre, diciamo, vocazioni, altre pulsioni. E un'altra cosa che risulterà molto chiaro dal libro anche, e non solo da questo, dal mio libro, ma dalla storia dell'impresa nel mondo, che per fare l'imprenditore non servono i soldi. Beh, questa è, diciamo, una provocazione in un certo senso. Servono certamente più le idee che non i soldi. No, i soldi sono utili. Servono per fare funzionare, certo, tutto, ma non è che uno diventa imprenditore perché ha i soldi. Magari diventa un buon investitore. Qualcuno può pensare che ci sia un modo di fare impresa anche investendo i soldi, anche se adesso non è molto di moda. Ma per creare l'impresa, penso al signor McDonald's piuttosto che al signor Ikea, sono realtà che non sono partite perché uno aveva dei soldi e non, certo, sapeva come investirli, allora ha detto faccio l'Ikea. E i soldi erano il manico della cesta, se mi consente, per quei signori che hanno avuto delle grandi visioni e sono stati capaci di superare un'infinità di avversità e di imprevisti e trasformarle in grandissime aziende. Grazie, Adriano Moraglio, questo titolo, Piano Piano, che ho fretta, chi l'ha trovato? Il titolo nasce sempre dalle nostre chiacchierate e da un ricordo di Marco Boglione, ricordo di una chiacchierata con un suo amico spagnolo, il quale tornando da una avventura di lavoro e discorrendo di lavoro, gli consigliava che il miglior metodo per affrontare le situazioni era quello di andare piano piano, quando si è fretta, perché il far piano piano le cose permette di non dover più fare dei passi indietro, cioè si fanno più passi avanti facendo in modo ponderato, in modo ragionato tutto per poter andare più in fretta. E questo per Marco Boglione ha voluto dire nella sua storia imprenditoriale, valorizzare tutta la grande fatica, tutto il grande lavoro che è stato fatto a fine degli anni 90 per informatizzare tutto il sistema organizzativo di questo gruppo. Ecco, nella... posso prego, una cosa su Piano Piano che ho fretta, perché per noi è veramente una cosa molto importante. Ma diciamo che non siamo stati i primi a dirlo, però ci siamo arrivati per la nostra strada, cioè qualcuno attribuisce questo tipo di affermazione a Churchill, che quando era in ritardo al suo vecchio maggiordomo diceva: John, dress me slowly because I am in a hurry, cioè vestimi piano perché sono di fretta, devo uscire. E questo è proprio uno dei motti della nostra azienda, proprio perché abbiamo sempre avuto davanti talmente tante cose che ci attraevano e che ci facevano sognare, ci spingevano a realizzarle, che appunto un giorno questo mio amico spagnolo mi disse: in Catalunya noi diciamo sin pausa, sin prisa, quindi senza pausa ma senza fretta, perché se ci metti la fretta e rischi di sbagliare, poi rischi di tornare indietro e nonostante tutta la velocità che ci metti più tempo. Quindi poi la traduzione è stato piano piano che ho fretta, ma è una cosa che in azienda ci diciamo praticamente tutti i giorni, tutti, che non è un distacco, non è stato dirmelo anch'io, certo, ma non è un distacco dalle cose aziendali. Infatti nel libro si dice a un certo punto: nel frattempo continuo a dormire in ufficio, ma a dormire non durante le ore di lavoro, probabilmente le ore di lavoro. Beh, questo bisogna spiegarlo, Marco. No, io credo anche qui che non ci sia niente di nuovo. Io sono un imprenditore che vive molto vicino all'ufficio, come tanti imprenditori hanno la loro villetta di fianco al cantone. Una volta gli imprenditori vivevano proprio in fabbrica. In Cina moltissimi imprenditori vivono ancora nell'ambito del grande complesso industriale. Io vivo qua, mi ci sono messo a vivere, ma lo si scoprirà leggendo il libro, in un momento in cui di tempo ce n'era veramente pochissimo e mi conveniva dormire in ufficio. Trattavamo con tutto il mondo l'acquisizione del Maglificio Calzificio Torinese, e alla fine mi sono trovato a dormire sul sofà per 4-5 notti, e a un certo punto poi mi sono fatto un alloggetto, e poi adesso c'è un grande loft nel complesso industriale completamente ristrutturato. Non vorrei che nessuno pensasse: oh, povero Boglione che dorme in ufficio. Sto benissimo, sono comodissimo, non sono mai arrivato una volta tardi a una cena a casa o tardi in ufficio al mattino, perché ci metto fisicamente 30 secondi dal letto, certo, all'ufficio. Ecco, abbiamo giusto, è un grande privilegio. Abbiamo giusto 30 secondi per concludere. Dottor Boglione, qual sarà il prossimo passo? No, beh, il prossimo passo ce ne sono già stati tanti da quando è uscito il libro. Sono appunto i passi che riguardano la conduzione aziendale, lo sviluppo in un momento economico veramente difficilissimo, dove però, come sempre, nei momenti molto difficili, chi ha fatto le cose bene quando in tempi non sospetti può cogliere anche delle grandi opportunità. Quindi noi stiamo toccando ferro, ma andando bene, industrialmente molto bene, e quindi siamo iperconcentrati a fare quello, proprio perché sappiamo che è un'occasione irripetibile che ci si presenta. Andare bene in questi momenti è certamente una buona notizia. Grazie mille, abbiamo parlato con Marco Boglione, imprenditore, presidente del gruppo Basic Net, e con Adriano Morario, giornalista del Sole 24 Ore, del libro Piano Piano, che ho fretta, Imprenditore è bello, edito da Basic Edizioni. Grazie a chi ci ha seguito, arrivederci a domani. We'll be right back.